Parate militari, immense fotografie dei leader, video virali, cinema, affissioni, slogan, libri. Come comunicano i regimi? Come iconografie, cinematografia, musica, giornali rinforzano leader e leader autoritari e influenzano la percezione dei cittadini? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Tu sei il vero eroe perché tu ti spogli di queste strutture che non esistono, perché esiste soltanto l'Islam. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Buon venerdì da parte mia, da parte di Antonio Tali, Elisa Pancaldi, Gianmarco Ferronato, la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Vi ricordo i commenti, le critiche, le domande al 349-238-6666, sono sia SMS che WhatsApp, potete twittare, gli indirizzi sono Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. E poi c'è la pagina Facebook che è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, nella quale trovate anche la diretta Facebook per l'appunto. Allora, quest'oggi ci prendiamo una piccola pausa dalla stretta attualità, sempre però con un occhio ai risultati delle elezioni in Kenya, che sono attesi a minuti se non a ore, e ci prendiamo una piccola pausa per montare il grandangolo, come amiamo dire, e fare una ricognizione su alcuni casi esemplari di propaganda ed efficacia della stessa, strumenti di propaganda e obiettivi della propaganda. Allora, la prima tappa di questo viaggio ci porta in Turchia. Ed accompagnarci nella prima tappa di questo viaggio è Marta Ottaviani, a cui do il mio ben ritrovato. Nessun luogo è lontano. Marta, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, Marta Ottaviani scrive fra gli altri sulla stampa Avvenire, e ricordiamo il suo ultimo libro dopo le mille e una Turchia, il Rais, come Erdogan ha cambiato la Turchia, Textus Edizioni. Ed è proprio per questo che ti chiamiamo, Marta, perché da attenta osservatrice del paese ponte, no, tra Europa e l'Est, ma anche attenta osservatrice delle mosse del sultano o Rais, come lo volete chiamare, vorremmo con te analizzare quelle che sono le armi più affilate della macchina di propaganda di Erdogan. Per fare questo però, Marta, io ti porgo il braccetto e ti porto al cinema. Minareler süngü, kubbeler mihen, camiler kışlamış, müminler asker, bir şey bizi sindir. Allora, le voci e i suoni che sentite sono un estratto di un film che si intitola Il Rais, un film uscito quest'anno ed è un film biografico appunto sulla vita di Erdogan. Certo, diciamo che quando un presidente come dire, mette il cappello su una filmografia che esce nelle sale cinematografiche e lui è ancora in vita, diciamo che si chiude il cerchio in qualche modo della macchina propagandistica. Il regista, non so se lo conosci Marta, è tale Udaverdi Yavuz. E poi in realtà ci siamo parlati poco prima della diretta, insomma mi spiegavi che fondamentalmente ripercorre la storia di un giovane Erdogan fino poi anche a una condanna che si beccò nel 1998 per istigazione all'odio religioso. Partiamo da questo film, che è l'ultimo tassello di una serie di mosse che il presidente Erdogan ha messo in campo per rinforzare, rinsaldare la sua immagine. Partiamo però dal film. Sì, assolutamente, diciamo che il Rais, il film, incorona in qualche modo una strategia di comunicazione che Erdogan ha messo in atto da quando è stato eletto primo ministro nel 2002 per la prima volta, ed è molto interessante vedere come con la svolta autoritaria di Erdogan sia cambiata anche la comunicazione, proprio la coreografia attorno al personaggio che culmina con questo film che è tratto dall'unica biografia che Erdogan abbia autorizzato. spiegato, e che è praticamente una celebrazione dell'ascesa politica di Erdogan, il suo presunto smarcamento dalla destra della vecchia destra islamica e la fondazione dell'AKP. Il film ha, peraltro è stato un fiasco ai botteghini, pensate, ha comunque un intento celebrativo evidente, vede un Erdogan, e questo corrisponde alla realtà, nascere in una famiglia povera del Mar Nero con un'infanzia sua e di suo fratello durissima e poi diventare un grande leader politico. Però tu giustamente prima facevi notare che si è fatto un film su una persona ancora in vita. Erdogan già da qualche anno ha decine di strutture, di vie, persino uno stadio intitolato alla sua persona, senza dimenticare poi il nuovo palazzo presidenziale che si è fatto costruire nel 2015 ad Ankara, che insomma diciamo rispecchia un po' la sua nuova identità di leader autoritario, che soprattutto è costato centinaia di milioni di dollari ai contribuenti turchi. Allora, in questa puntata in Nessun Luogo Lontano andiamo a tratteggiare alcuni casi di scuole in cui leader in paesi del mondo mettono in campo una potenza di fuoco dal punto di vista della propaganda che merita la nostra attenzione. Quali sono i simboli di riferimento, anche dal punto di vista iconografico, che Erdogan mette in campo? Marta, tu mi hai mandato via email una serie di foto molto interessanti di Erdogan, adesso cerchiamo di postarle anche sulla pagina Facebook del programma. Una di queste foto mi ha stupito particolarmente perché c'è questo presidente che scende da una scalinata attorniato da soldati ottomani. Si guarda al passato per disegnare un possibile futuro. Sì, sicuramente il tema ottomano e neottomano è stato uno dei temi importanti anche, come dire, della nuova esuberanza della Turchia in politica estera, ne abbiamo parlato tante volte proprio a Nessun Luogo Lontano. E Erdogan ne ha fatto anche un motivo, come dire, di nostalgia storica, di, come dire, riscoperta del proprio passato storico in chiave ovviamente antichemalista e quindi antilaica, che molto spesso assume contorni parecchio folcloristici. La foto di cui parlavi tu è un esempio, ma anche il trono sul quale Erdogan ha accolto Angela Merkel in una delle sue ultime visite ufficiali del cancelliere tedesco in Turchia può essere anche un altro. E proprio anche la storia ottomana viene usata per incantare, per così dire, il popolo televisivo. Un'altra delle foto che ti ho mandato è una delle telenovele sull'impero ottomano che compaiono sulle televisioni turche e che sono diventate tra i programmi più seguiti e anche più frequenti in Turchia. Quello che ti ho mandato io è Bir Osmanlı Zamanı, che è una storia ottomana, e poi sopra c'è una scritta Destan Başlıyor, il momento epico inizia, proprio a sottolineare un passato glorioso che il popolo turco deve in qualche modo riscoprire. E è molto interessante perché una volta, ma vi parlo fino a una quindicina di anni fa, il passato ottomano, insomma questa presunta eredità, era pressoché ignorato dalla popolazione, che insomma non manifestava nemmeno particolare interesse per tutto quello che era successo prima del 1923. Sì. Erdogan ha sdoganato tutta una serie di sentimenti e risentimenti storici, basti pensare alla sua, come dire, al suo invito, alla sua minaccia sempre più frequente addirittura di ridiscutere il trattato di Losanna, che è datato proprio 1923 e che assegnava tutte le isole di fronte alla Turchia alla Grecia. Quindi insomma una rievocazione storica che può avere però grossi, come dire, che rappresenta anche una grossa minaccia per il futuro. Sì. Marta Ottaviani, io approfitto della tua presenza qua a Nessun Luogo Lontano perché un ascoltatore, un fedele ascoltatore che ogni giorno pone domande piuttosto accorte, in realtà ci fa fare un salto indietro nel tempo, ma approfitto di te appunto. E Tonio ci chiede come è riuscito Erdogan ad avere molti connazionali in Germania che lo abbiano sostenuto in occasione del referendum. Cioè, si chiede come la diaspora turca, come abbia fatto Erdogan a convincere la diaspora turca che è presente in Germania. Si tratta di una domanda molto interessante. Anzitutto Erdogan in Germania pare sia stato votato soprattutto da giovani, quindi da turco-tedeschi di nuova generazione, che sono affascinati come tanti altri giovani, non solo in Germania ma nel Mediterraneo, e non solo turchi ma anche egiziani, marocchini e quant'altro, da questo leader che si pone un po' come punto di riferimento per il mondo islamico. E c'è purtroppo anche, credo che quella di questi tedeschi che hanno votato sia al referendum di Erdogan, sì, sia una reazione all'età dei nuovi nazionalismi che è nata in Europa da qualche anno. Quindi il nazionalismo tedesco, il nazionalismo ungherese, austriaco e quant'altro ha come reazione l'islamo nazionalismo turco, che è pericoloso ovviamente tanto quanto queste forme che stiamo monitorando in questi paesi. Se è con noi Marta Ottaviani, giornalista freelance, la potete leggere sulla Stampa, su Avvenire. Tra gli altri ricordo il suo libro Il Rais, come Erdogan ha cambiato la Turchia, Textus Edizioni. Certamente tra le armi che ha utilizzato Erdogan per cambiare la Turchia c'è una macchina della comunicazione, dell'iconografia e della cinematografia, come stiamo ascoltando, che sicuramente ha messo in campo mezzi e competenze e conoscenze. Nel frattempo Pierpaolo da Bologna mi sollecita dicendo che sono un pelino presuntuoso nel battezzare quali sono nel mondo le dittature e quali sono invece le democrazie. Intanto non ho detto che Erdogan è una dittatura, sicuramente è un leader, sicuramente mi sento di dire senza tema di smentita che una svolta autoritaria l'ha fatta. E dobbiamo sempre ricordare che dal punto di vista della libertà di stampa la Turchia nella speciale classifica mondiale detiene una maglia nera per numero di giornalisti imprigionati. Quindi direi che senza tema di smentita possiamo dire che Erdogan ha avuto una svolta autoritaria. Marta Ottaviani, quanto costa una macchina della comunicazione come questa? L'efficacia l'abbiamo misurata, la stiamo misurando. Quanto costa al governo turco mettere in piedi tutta questo apparato? Io ricordo uno spot abbastanza recente, prima del referendum, molto lungo, durava 3 minuti, uno spot epico in cui si vedeva un Erdogan alla fine che andava ad affiggere una stella su un cancello. Anche questa produzione, insomma, rivela uno sforzo notevole. Sì, ma Erdogan devo dire che ha sempre avuto il pallino della comunicazione, e pensate che per la creazione del logo dell'AKP assunse Erol Olçok, che era uno dei pubblicitari più noti del paese, che è morto tra le altre cose l'anno scorso durante il golpe poi fallito, era uno di quelli che si opponevano sul ponte sul Bosforo ai militari gülenisti, almeno questa è la versione ufficiale, ed è stato ucciso con il figlio. E Olçok, quando era ancora in vita, raccontava che Erdogan scelse il simbolo dell'AKP tra 70 bozzetti diversi. È sempre stato maniacale nella cura della sua comunicazione, e anche proprio per questo gli analisti e chi lo segue pensa che alla sua comunicazione corrisponda un messaggio politico ben preciso. È sicuramente una macchina che costa centinaia di milioni di dollari ogni anno, ma dobbiamo ricordare, e questo già lo ricordavi tu in maniera molto pertinente poco fa, Erdogan può contare sul controllo delle televisioni e della maggior parte delle televisioni di quasi tutti i quotidiani, nonché anche degli spazi pubblicitari messi a disposizione sulle metropolitane, negli spazi pubblici delle città, che vengono dati a lui e al suo partito pressoché gratuitamente, soprattutto nelle municipalità dove l'AKP e il suo partito comanda da diversi anni. Quindi è una macchina che costa tanto, ma dove i costi vengono diminuiti, diciamo, da questi rapporti clientelari. Per sintetizzare in maniera anche un po' ironica, insomma, uno sconto fedeltà per chi è legato al partito del presidente Erdogan. Grazie mille, come sempre, Marta Ottaviani, per la sua analisi. Buona giornata e buon lavoro, Marta. Alla prossima. A voi, buona giornata. Allora vi ricordo 349-238-6666 per porre domande a me e ai miei ospiti, per commenti, anche critiche, perché no, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter potete cinguettare a Giampaz oppure a Nessun Luogo 24. Seconda tappa di questo nostro viaggio, che cerca di raccogliere un po' casi scuola, casi eclatanti, casi particolarmente rilevanti di propaganda nel mondo, questa seconda tappa ci porta in Cina, o meglio in Africa. Ci porta in Africa perché adesso vi racconto brevemente la trama di un film che è un super successo ai botteghini cinesi, a dispetto di quello che ha fatto invece il Reis, come raccontava Marto Taviani, in Turchia. Il film è Wolf Warriors 2, film d'azione appunto cinese diretto da Wu Jing. Il film è uscito quest'anno, è un sequel di un noto film che era uscito 2 anni prima, super successo commerciale, ed è ambientato in Africa. In Africa, dove viene raccontata una presenza cinese che viene accolta molto bene dalla popolazione africana, e i cattivi sono dei mercenari occidentali. Ecco, allora, benvenuto Antonio Taglia, che è passato di là dal vetro, da autore è diventato ospite ancora una volta, perché quando si parla di Cina è uno dei commentatori più autorevoli. Adesso, Antonio, devi tradurci tutto quello che il trailer ha detto, che immagino, uccidetelo. No, il protagonista arriva e dice: c'è nessuno in casa, sono venuto a salvarvi. Ecco, vabbè, ho provato a mettere in fallo Antonio Taglia, non ce l'ho fatta. Allora, scherzi a parte, questo film è importante, c'è una ricca pagina sulla stampa di quest'oggi che racconta appunto l'uscita di questo film nelle sale cinematografiche cinesi, e non è un caso che questo film esca proprio nel momento in cui si celebra i 90 anni della fondazione dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese. Non è evidentemente un caso, Antonio Taglia? No, è sicuramente un film che sta avendo questo successo incredibile che tu descrivevi, 571 milioni di dollari in 14 giorni, è il successo più forte del cinema cinese mai registrato, e è un film molto muscolare, nel quale effettivamente un eroe, anzi un gruppo di eroi capitanati dal protagonista, da Wu Jing, questo attore di arti marziali che tu definivi, si trova a fare delle cose che normalmente farebbero degli eroi hollywoodiani, cioè arriva, deve mettere in fuga, uccidere i cattivi. È un film estremamente muscolare che in qualche modo sta coltivando un'opinione pubblica cinese che si deve abituare sempre di più a un interventismo cinese in giro per il mondo. Non è neanche un caso che sia ambientato in Africa, certo. Secondo me. Fra l'altro, noi pochi giorni fa raccontavamo proprio della presenza cinese a Gibuti, no? La prima base africana, la prima volta che gli scarponi cinesi mettono piede in suolo africano. Quindi, e fra l'altro dobbiamo raccontare che la Cina dal punto di vista militare nel mondo ha sempre avuto una presenza assolutamente discreta, se non nulla. Evidentemente c'è un tentativo da parte di Pechino di iniziare a abituare appunto l'opinione pubblica a una presenza che si preannuncia un pochino più presente, scusate il gioco di parole. Quindi sdoganare l'idea della presenza cinese soprattutto in Africa, dove, lo ricordiamo, non ci stancheremo mai abbastanza, la Cina ha interessi commerciali enormi. Allora, qua vediamo come il cinema può essere una leva formidabile per influenzare ovviamente l'opinione pubblica. Però la macchina del Partito Comunista Cinese, che è un grandissimo apparato, non lavora solamente sulla cinematografia, ma fa un lavoro costante, quotidiano, H24, su tutto quello che viene detto, quello che esce. Assolutamente. C'è un lavoro quotidiano che è un po' il lavoro vecchio stile, sia della censura sia della propaganda, che passa quindi attraverso cartelloni, slogan, eccetera. Però il segretario del Partito Comunista Cinese, nonché presidente Xi Jinping, che lo ricordiamo è al potere dal 2012, sta cercando di imprimere in qualche modo una svolta digitale. Quindi si è reso conto che non si può parlare ai, perdonatemi il termine abusato, millennials con la vecchia propaganda, e quindi stanno cominciando a comparire già da quando Xi Jinping è al potere nuove forme di propaganda che ribadiscono sempre gli stessi vecchi messaggi ma in chiave nuova. Per esempio ci sono diverse canzoncine che sono diventate virali su Youku, che è una sorta di YouTube cinese, che in qualche modo esaltano la figura dello stesso Xi Jinping. Per esempio c'è che viene chiamato con un nomignolo familiare che si dà, quindi lo zio Xi Jinping, canzoncine che con testi del tipo se vuoi sposare qualcuno sposa uno come zio Xi e non importa se sono tigri o mosche, quindi se sono dei corrotti di piccolo livello o dei funzionari corrotti molto importanti, lui darà loro la caccia ovunque. Abbiamo dei gruppi hip hop come CD Rev che rappano su slogan sulle controversie che la Cina deve affrontare nel Mar Cinese Meridionale, e addirittura abbiamo società di consulenza patriottiche, società di comunicazione patriottiche come l'April Media, che organizza degli eventi di tipo TED Talk, quindi con quella iconografia da TED Talk molto quasi alla Steve Jobs, sì, nei quali però si parla di come rifiutare i valori occidentali. Quindi si appropriano anche dalla nuova grammatica, se volete, quella più moderna, quella più occidentale, quella statunitense, per poi, come dire, convogliare i loro messaggi. Poi però c'è un aspetto che è precipuo, che è veramente particolare della Cina. Ci arrivo. 349-238-6666, c'è chi dice: non chiamiamo regime quello di Erdogan, che ha subito un colpo di Stato. È indubbio però che la deriva autoritaria ci sia stata, e non lo dico io, lo dicono autorevoli commentatori e giornalisti, anche quelli che sono finiti in carcere. Sempre sulla Turchia, l'atomica che verrà utilizzata è quella turca, 3 milioni di profughi sono l'arma di Erdogan, ma nessuno lo dice. Sveglia, dice questo ascoltatore, veramente nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano abbiamo ribadito che quella rotta turca è stata bloccata, la rotta turca dell'Egeo, proprio dagli accordi in Unione Europea, Erdogan, quegli accordi che tanto ricordano quelli più antichi tra Italia e Libia, all'epoca Berlusconi Gheddafi, con l'apertura dei rubinetti, quindi con l'utilizzo dell'arrivo di migranti come vera e propria leva politica. Poi un altro ascoltatore che dice: ma come, non parlate di Corea del Nord? Stiamo preparando una puntata speciale tutta dedicata alla Corea del Nord, andrà in onda lunedì, quindi vi invito fin d'ora a seguirci. E un altro ascoltatore via SMS, anzi via WhatsApp, 349-238-6666, che dice: già 10 anni fa ho visto grandi insediamenti cinesi in Tanzania ed Etiopia, verissimo, ma sono anche in Congo, sono in Repubblica Centrafricana, si occupano del settore minerario, costruiscono stadi, costruiscono anche strade. Siamo con Antonio Talia, che ha vissuto 6 anni a Pechino, 7 anni se non erro, ha fatto lunghe corrispondenze per un'agenzia di stampa italiana, continua a seguire le vicende cinesi. Antonio, c'è, come dire, facciamo un paragone un po' azzardato, se vogliamo, no? Tra la propaganda di Erdogan, cioè la macchina di comunicazione turca, e quella cinese. Erdogan è lui il personaggio, è lui l'ariete che va a sfondare le porte. In Cina, attenzione, perché c'è un apparato, c'è un collettivismo, c'è, no? È un po' differente. Sì, è molto differente, perché dopo la sbornia di propaganda maoista, che era estremamente personalizzata, da allora la leadership del Partito Comunista Cinese si è sempre dovuta mostrare molto collettiva. Quindi tutti i leader che si sono avvicendati dopo Mao, dopo la rivoluzione culturale, hanno sempre esitato e non sono mai stati in grado di concentrare la propaganda su se stessi. Devo dire però che con Xi Jinping qualcosa sta cambiando, lo stanno registrando tutti gli analisti che si occupano di Cina e di cose asiatiche. Sì. E lui sta concentrando molto di più rispetto ai suoi predecessori la propaganda su se stesso. Uno di quei video di cui parlavamo, per esempio, è un video con un Xi Jinping stilizzato con delle fattezze quasi cartunesche e questo sorriso enigmatico che lo contraddistingue, che illustra in qualche modo i progressi che sono stati fatti, sì, nel traffico. Tutto questo per dire che cosa, e chiudo, tra ottobre e novembre ci sarà il congresso del Partito Comunista Cinese, una parte della leadership dovrebbe andare in pensione, Xi Jinping appare sempre di più come quello che sta concentrando tutto il potere su se stesso, e quindi in qualche modo si sente talmente forte da riuscire a rompere la vecchia regola della collettivizzazione della leadership cinese e a concentrare tutta l'attenzione su di sé. Grazie mille Antonio Talia per essere stato con noi questa seconda tappa di Nessun Luogo Lontano, la macchina della propaganda cinese. Adesso una piccola pausa, sentiamo come vanno le borse e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. In questa puntata di Nessun luogo lontano proviamo ad esaminare alcuni casi scuola di propaganda, cioè di macchine di comunicazione perfetta che vanno a incidere sulla popolazione, sulla percezione che i cittadini hanno del potere. 349-238-6666, dove un ascoltatore mi solletica, per esempio, oltre a fare i complimenti, grazie. Ho l'impressione che altri paesi africani tuttavia non accolgono volentieri gli interessi cinesi. Il Marocco, cita per esempio questo ascoltatore. È vero che recentemente in più di una volta vi sono stati episodi di allergia da parte dei lavoratori. Credo in Angola o Mozambico vi siano state addirittura delle rivolte di lavoratori africani. Adesso stiamo verificando gli ultimissimi casi di cronaca, ma è vero, vi sono stati casi di, come dire, intolleranza rispetto a una presenza cinese che, attenzione, dal punto di vista, come dire, della politica si è sempre mossa in punta di piedi, parla con tutti i dittatori, presidenti democraticamente eletti, perché mira fondamentalmente al soldo. Sono estremamente pratici e concreti nella loro presenza, appunto, africana. Allora, in questa puntata in cui raccontiamo la macchina della propaganda, dobbiamo sapere che anche le organizzazioni terroristiche si muovono. Per esempio, i talebani pakistani hanno da poco lanciato un magazine patinatissimo, dalla grafica molto accattivante, che si chiama Sunnat e Kalua, che si rivolge alle donne, soprattutto per arrivare attraverso loro ai giovani e per poi reclutare, appunto, i giovani. E l'ISIS come si muove? L'ISIS, quel che resta dello Stato Islamico, che ormai dal punto di vista territoriale è agli sgoccioli, preoccupa naturalmente, ovviamente, quello che è il ritorno dei cosiddetti foreign fighters, quindi di combattenti che erano andati a Raqqa, erano andati a Mosul e poi adesso si cerca di non farli tornare. Ovviamente la propaganda è stata certamente una delle leve più importanti, più efficaci che lo Stato Islamico ha tentato di usare, ed è stata una propaganda molto social, cioè rispetto ad altri stati propriamente detti e altri dittatori o regimi. Per ISIS ci sono due fattori fondamentali, ci sono stati ormai, dovrei dire: da un lato è il brand e dall'altro, appunto, l'utilizzo massiccio dei social network. Sentite cosa ci racconta Daniele Raineri, redazione esteri del Foglio, esperto di mondo arabo e di Medio Oriente. Sentite la nostra sollecitazione, cosa dice. L'ISIS ragiona esattamente come le grandi tirannie, nel senso che l'ISIS è un gruppo terroristico un po' diverso dagli altri perché è riuscito a incarnarsi in un governo, in una giunta militare islamista, quindi, voglio dire, sono, anche loro sono come gli altri grandi dittatori, perché per 3 anni almeno hanno controllato una enorme fascia di territorio. Il grosso problema dell'ISIS è questo, che loro in teoria non possono essere personalistici, nel senso che proprio anche perché, diciamo, la religione musulmana, soprattutto in questa sua interpretazione rigidissima, tende a evitare i personalismi. Loro sono quelli che distruggono le tombe perché vogliono evitare che diventino oggetto di venerazione e che quindi sia violato il principio fondamentale dell'Islam, che è il monoteismo, ossia bisogna adorare soltanto Allah. Il fatto che quando tu leggi, sei in contatto con la loro propaganda, ti accorgi che anche loro hanno una voglia matta di personalizzare, nel senso che esattamente come da noi in Italia si venera Padre Pio, da loro si venera Abu Musab al-Zarqawi, che è il fondatore dello Stato Islamico, che è morto nel 2006 in un bombardamento americano di Giordano, il superterrorista. Si venera Abu Omar al-Baghdadi, che è il predecessore di Abu Bakr, che è, diciamo, il leader del gruppo che è venuto prima di Abu Bakr, anche lui morto in uno strike americano nel 2010. Loro, nella loro propaganda, spingono tantissimo, solo che ovviamente non possono, come dire, ogni tanto gli slitta la frizione e quindi questa voglia di personalizzare si vede. Per la maggior parte del tempo cercano di non violare troppo le loro stesse regole. Però quindi, la loro propaganda è imperniata, è incardinata su tantissima roba molto personalistica, culto della personalità. Zarqawi è citato come una specie di santo guerriero, c'è sempre una citazione di, non so, Al-Adnani, che è questo leggendario portavoce che è stato ucciso il 31 agosto dell'anno scorso. C'è sempre una sua citazione con lui che parla, per esempio il classico video dello Stato Islamico è un assalto ravvicinato, colpi d'arma da fuoco e sotto la voce dell'Adnani che recita un passaggio di uno dei suoi discorsi. Lui ne ha fatto circa una trentina di questi discorsi che duravano mezz'ora, questi messaggi audio. Ecco, questo è il classico, quindi c'è sempre un po' di personalismo, e se parli con quelli dello Stato Islamico parlano con la stessa venerazione con cui, non so, un tifoso del Barcellona parla di Messi, cioè capisci che c'è proprio un investimento personale. Sì. Loro ne parlano, hanno questo pantheon del gruppo. Se gli stati propriamente detti nel mondo ricorrono alla propaganda e alla forza della comunicazione per rinsaldare il proprio potere, anche il sedicente Stato Islamico, ormai dicevo quel che resta, perché dal punto di vista territoriale e militare evidentemente sono rimasti col contagocce, ISIS ha attivato una macchina che era molto molto potente, lo si vede dal numero delle persone, dei giovani che sono stati reclutati in tutto il mondo. Quali sono i valori a cui si è affidato dal punto di vista aspirazionale? Quali erano i valori fondanti che lo Stato Islamico voleva trasmettere? Forse una vita migliore, un futuro migliore? Sentite ancora Daniele Raineri del Foglio. Lo Stato Islamico si rivolge, diciamo, a tutto un materiale umano che aveva bruciato le possibilità, non aveva più una prospettiva. Nel senso, se tu sei un 19enne tunisino alla periferia di Tunisi e non hai una prospettiva di vita, il califfato ti offre di diventare una specie di eroe in una guerra di rivoluzione islamica che ti offre anche il vantaggio di essere combattuta nel nome della religione di tuo padre. Ma loro ti dicono, mentre tuo padre è un ipocrita, perché sotto sotto comunque alla generazione precedente piaceva la vita comoda, andare in moschea, ma comunque sottostare alle regole dei governi di apostati e miscredenti, tu sei il vero eroe, perché tu ti liberi di queste, ti spogli di queste strutture che non esistono, perché esiste soltanto l'Islam, e hai il coraggio di abbracciare la tua religione, la religione di tuo padre, di tuo nonno, di tutte le generazioni precedenti, nel vero modo, e di cambiare la tua vita, che diciamo non ti offriva assolutamente nulla se non calciare ciottoli alle periferie di Tunisi. Questo è il discorso propagandistico dello Stato Islamico, perché diciamo che la vita migliore cioè non funziona molto, perché comunque lo Stato Islamico è in una situazione di conflitto, quindi loro, diciamo, è difficile proiettare un'immagine di un qualcosa di più, perché sanno benissimo che in questo momento lo Stato Islamico è proprio questione di bombardamenti, acqua razionata, vita molto precaria, quindi certo, non c'è ancora questa dimensione del costruiamo l'impero islamico, cioè, perché nella pratica è difficile propagandare una cosa così utopistica se la realtà è così differente. Era Daniele Raineri che ci ha spiegato meglio come funziona, su quali binari viaggia la propaganda di ISIS, del sedicente Stato Islamico, oramai dal punto di vista del militare alle strette, ma con ancora evidentemente un brand, ai noi, attrattivo. Per adesso capire meglio quella che io dicevo provocatoriamente, presentando la puntata di quest'oggi, la ricetta della propaganda perfetta, ci soccorre il professor Gaspare Nevole, politologo, sociologo, insegna sociologia dei fenomeni politici all'Università di Trento, per anni ha insegnato anche comunicazione politica e quindi è l'uomo giusto, al momento giusto, per capire questo aspetto. Professor Nevole, buongiorno, benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, prima di, come dire, snocciolare quelli che sono gli ingredienti di questa ricetta, no? Della propaganda perfetta, della macchina che funziona, che crea collante fra uno Stato, fra un leader e i suoi cittadini, abbiamo sentito tra gli altri ospiti quali sono un po' le idee forti, i valori fondanti. Si è parlato di futuro tantissimo, si è parlato di forza. Quali sono le leve più efficaci, secondo lei, e appunto i valori più identitari che una macchina della propaganda deve mettere in campo? Ma direi sono quelli che sono stati già richiamati dagli ospiti. Aggiungerei diversi altri fattori che possono concorrere in quella che insomma è la matrice della propaganda. In alcuni casi l'idea dell'ordine, di mantenere l'ordine, il quieto vivere, ma in casi opposti quello invece di cambiarlo radicalmente, la rivoluzione. E quindi i sogni, il futuro, ma per altri versi anche la mobilitazione del passato, di un passato glorioso che da in molti casi si ritiene di dover recuperare. Poi vi sono fattori religiosi, fattori etnici, veramente questi sono i materiali di cui si avvale la macchina propagandistica. Beh, per esempio, vorrei fare un piccolo passo indietro, perché finora abbiamo molto parlato dell'attualità e magari ci torneremo ancora, però io ho l'esigenza anche, come dire, per meglio parlare dell'oggi, delle cose che ci accadono oggi, di fare qualche puntualizzazione quando parliamo di propaganda. Intanto vorrei dire che dobbiamo intenderlo come un elemento fisiologico della vita umana collettiva, di quell'essere sociale, politico, che diceva Aristotele. Propaganda, il termine, è molto antico, anche se noi oggi l'abbiamo dimenticato, e nasce in ambito religioso. Nasce con la Chiesa Cattolica nel 1632 e stava a designare la propaganda fide, cioè che cosa? La diffusione e la difesa della fede, di quelli che erano ritenuti dei valori per i credenti dell'epoca. Quindi tecnicamente oggi direi che propaganda, anche se è un termine che noi usiamo con un'accezione prevalentemente negativa e lo associamo a quei regimi, a quei leader politici, a quei gruppi politici dai quali prendiamo le distanze, sui quali formuliamo dei giudizi negativi, di per sé è un'accezione tecnica neutrale, significa coltivare, seminare, diffondere. Quindi quello che noi oggi diciamo comunicare o pubblicizzare sul versante più commerciale. Quella che noi oggi chiamiamo la propaganda con questa accezione negativa è semmai la cosiddetta propaganda nera. Esistono vari tipi di propaganda, c'è una propaganda bianca, quella che procede senza inganni, che è corretta, che fa informazione e che propaga idee, propaga valori. Poi c'è la cosiddetta propaganda un po' mista, che è un po' bara, che mette insieme cose accettabili e cose inaccettabili, e poi c'è quella di cui stiamo parlando, che è la cosiddetta propaganda nera, quella che vive di inganni, quella che priva le comunità di principi, di stravolge i principi. Insomma, questa propaganda nera è quella di cui stiamo parlando, ma per me è importante, per comprendere meglio quella che è la macchina che è della propaganda, allargare un po' il discorso e dire un'ultima cosa a questo riguardo, che di per sé la propaganda è una tecnica, è uno strumento che si riempie di contenuti differenti e quindi va valutato volta a volta, sia o sul piano appunto della tecnica, degli strumenti che utilizza, o sul piano dei suoi contenuti, dei fini che persegue. Professore, la interrompo un attimo, perché di questa tecnica parleremo meglio, entreremo nelle pieghe anche proprio di alcune strategie di propaganda subito dopo l'informazione sul traffico. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, ultimo capitolo di questo nostro viaggio, tutto dedicato a un'analisi di quella che è la macchina della propaganda in alcuni regimi, in alcuni stati, da parte di alcuni leader nel mondo, ma anche organizzazioni terroristiche. In proposito, al 349-238-6666 un ascoltatore, Ugo, chiede: si sa che fine ha fatto il giornalista inglese che è stato portavoce di ISIS a Mosul? Si riferisce, immagino, a John Cantley, che è stato, suo malgrado, un alfiere di tanti film, tanti video poi editati dallo Stato Islamico. Alcuni report lo danno, ai noi, per morto a luglio, ucciso a luglio durante la liberazione appunto di Mosul. 349-238-6666 per gli ultimi commenti. Noi siamo col professor Gaspare Nevola, politologo e sociologo, insegna all'Università di Trento, che giustamente ci faceva fare un passo indietro nella storia per meglio capire quella che è l'attualità. Ci indicava quali sono un po' i valori fondanti di ogni macchina propagandistica. Professore, c'è un insegnamento che la storia ci ha consegnato di come una piccola minoranza politica, almeno all'inizio, con un abile uso della comunicazione e della propaganda, poi diventi una grande, un grande attore politico, che fu la propaganda bolscevica. Facciamo una menzione su questo episodio storico perché è interessante. Certo, a maggior ragione quest'anno che ricorre il 100° anniversario della rivoluzione russa o bolscevica, che dir si voglia. Sì, siamo di fronte a un caso di un piccolo gruppo, di una minoranza, i bolscevichi, che è una minoranza nell'ambito del movimento socialista, che con determinazione, direi, fideistica, proprio con idee incrollabili sul futuro da realizzare, che era l'eliminazione delle divisioni in classe della società, mette in moto una macchina propagandistica che ha delle sue peculiarità, va detto. Utilizza strumenti molto efficaci, le grandi adunate, le proiezioni cinematografiche, le immagini, ma utilizza anche la violenza. Non dobbiamo scordarlo quando appunto cerchiamo di distinguere propaganda da propaganda, anziché svilire il termine in sé per sé. C'è la violenza, la stessa violenza che utilizzavano le minoranze delle forze nascenti naziste e fasciste in Germania e in Italia, nel momento in cui propagavano le loro idee, ma facevano anche opere di coercizione, di linciaggio fisico, intimorivano. Quindi la cosa interessante però in questi episodi sì. storici da ricordare è come da sola la violenza, l'uso della forza non basti né alle minoranze né ai regimi, cioè a coloro che detengono un sostegno maggioritario all'interno di un paese. Non basta solo la forza, l'uso della violenza, perché il potere in qualche modo, quando si esercita solo ed esclusivamente tramite la forza bruta, è troppo costoso. Beh, certo, c'è bisogno problemi. Anche di consenso, no? Perché diventa inefficiente la sola violenza. Esattamente, bisogna convincere. Convincere che cosa? Convincere le persone di una visione del mondo, di costruire il presente, l'ordine presente o immediatamente il futuro attorno ad alcuni valori che vanno resi graditi. Questi valori non è detto che siano del tutto inventati da queste minoranze che anche con modalità violente, colpi di Stato e così via, come sappiamo, nazismo, fascismo e bolscevismo, non sono necessariamente inventati da costoro. Costoro riescono a intercettare dei sentimenti, degli umori, delle aspettative, chiamiamoli dei bisogni, sì. della gente comune che non trova corrisposta in quel momento, e quindi magari alterandoli, manipolandoli, fanno un'offerta politica, un'offerta identitaria di valori nei quali poi la gran parte certo. della gente si riconosce e tributa in questo modo il consenso a queste minoranze e poi diventano ipermaggioranze. Allora, se posso sintetizzare, è l'offerta giusta al momento giusto, per usare un linguaggio un po' commerciale, un po' da marketing. Professore, stia con noi perché abbiamo raggiunto Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia, per andare a capire, visto che abbiamo analizzato quella che era l'iconografia e la propaganda della rivoluzione russa, che eredità ha lasciato nelle mani dello zar attuale di Vladimir Putin e la sua iconografia, la sua potenza muscolare. Sentite. La propaganda di Vladimir Putin ha un'arma molto particolare, che è proprio lui, Vladimir Putin, perché qualunque tipo di costruzione, di propaganda, di scenografia, costume, eccetera, non funziona alla fine se non c'è un personaggio, e il personaggio di Vladimir Putin è assoluta quella popolarità della quale gode tuttora, un record fenomenale di quasi 20 anni ininterrotti di amore incondizionato dei russi. In realtà i momenti che gliel'hanno fatto guadagnare questo amore non sono stati costruiti in provetta, sono stati naturali, come quando lui nell'autunno del 1999 disse, a proposito dei terroristi ceceni, li ammazzeremo anche nel cesso, che fu una frase assolutamente scappata di bocca, che anzi preoccupò tantissimo i suoi spin doctor, perché fu considerata troppo brusca, troppo violenta, troppo volgare. Invece il giorno dopo l'anonimo delfino di Boris Yeltsin divenne il leader più amato dai russi e tale resta. Per esempio, perché Putin in realtà è in sintonia con tantissimi russi, per quello che pensa, per quello di cui ha paura, per quello che vuole, per quel misto di affermatività e nello stesso tempo imbranataggine e timidezza, per tanti tanti altri motivi. Putin è per molti russi, vi riconoscono il russo tipico, cioè non l'eroe, non quello che avrebbero voluto essere, ma quello che sono. E questo è appunto un esempio di come la propaganda, che poi è costruita negli anni, è stata un misto di cliché sovietici, di ricorso a simboli della Russia molto più antica, degli zar, e di metodi molto moderni, molto americani, molto hollywoodiani, però tutta questa macchina non funzionerebbe se al centro non ci fosse un personaggio che è proprio in empatia con diciamo, i destinatari, i consumatori della sua propaganda. E anche nel caso di un'austera e potente macchina della propaganda come quella prima bolscevica, poi più moderna russa, succede che anche all'interno di team che si occupano di comunicazione, spin doctor, gente che scrive discorsi, poi quella che apparentemente poteva essere uno scivolone, una gaffe pazzesca che avrebbe potuto distruggere una carriera, poi la lancia, e lì è il talento evidentemente della comunicazione dell'individuo, che però, diceva Anna Zafesova, va a intercettare un bisogno, un voler sentirsi dire da parte di una popolazione, di una comunità, che va in qualche modo a sottolineare già la tesi che lei, professor Gaspare Nevola, lo ricordo, insegna sociologia dei fenomeni politici a Trento, stava enunciando. Professore, siamo quasi in scadenza, abbiamo pochi minuti, e allora io le propongo questa sfida impossibile. Alcuni punti li abbiamo già un po' toccati, però io vorrei veramente provare a mettere in fila quelli che sono gli ingredienti di una propaganda perfetta. Ci proviamo. Propaganda perfetta non saprei, credo che non esista una propaganda perfetta. Può esistere una propaganda efficace, è quella che appunto utilizza determinate risorse e condizioni in particolare. Per esempio l'assenza del pluralismo, l'assenza di un'opposizione chiara, forte e legittima, e quindi la concentrazione del potere. Oppure la capacità, l'abbiamo già detto, di definire e ridefinire, manipolando, bisogni e aspettative presenti, diffusi, magari latenti, in una società. Oppure ancora la concentrazione e il monopolio o il controllo, a seconda dei casi, dei mezzi di comunicazione. Sono tutti fattori, ingredienti che contribuiscono a rendere efficace una propaganda. E poi l'uso dei messaggi, il messaggio comunicativo, propagandistico, in questo caso deve essere ripetitivo, ossessivo, pervasivo, deve entrare nella vita quotidiana. Nel Barbiere di Siviglia Rossini faceva cantare «La calunnia è un venticello che ci accompagna quotidianamente», e così deve funzionare la propaganda. Poi sono necessarie la presenza di leader credibili, dotati di qualche carisma, che possono addirittura portare al culto della personalità, e noi quest'oggi ne abbiamo sentiti diversi. Sì. E un altro ingrediente che direi molto molto essenziale, direi la capacità nella comunicazione di suscitare emozioni. Questo arriviamo anche a noi, arriviamo anche alle nostre società liberali e democratiche. Queste emozioni possono essere dei timori, delle paure alle volte, e altre volte l'orgoglio, la sicurezza, i sogni, insomma i sentimenti, la passione danno vita alla politica e sono molto efficaci nella politica, quindi nella propaganda. Certo, grazie mille per questa radiografia, professor Gaspare Nevola, lo ricordo, insegna sociologia dei fenomeni politici all'Università di Trento. Grazie mille per essere stato con noi, professore. Grazie a voi, buona tutti, giornata, buona e buon lavoro. Era una puntata un po' desueta, un po' strana, se volete, un po' inusitata, in nessun luogo lontano. Abbiamo messo un grand'angolo e anche un po' la macchina Raj X, se volete. Adesso è tempo di titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Talia e Elisa Pancaldi per aver confezionato anche quest'oggi con me questa puntata, e poi le pennellate di musica di Gianmarco Ferronato, che è stato in regia. Voi per essere stati all'ascolto. Intanto vi saluto, spengo il microfono, vi auguro un buon weekend, ma vi ricordo che nessun luogo è lontano.